lui la mattina presto, eh? Dopo che si faccia squillare un telefono. Vai, cuoppone. Mi devo andare a portare il cane, devo andare. Beh, mi sono portato anch'io adesso. Stamattina ci sta presto, arrivo subito. Certo. Vero. Già. Elu. Vero. Elu. E beh, tu. Va, la carina. Ho portato il cane. Ehi, ehi. E stamattina ha fatto una monella la mia, l'ha fatta in casa. Diciamo, la vazia più. Vabbè, ma ormai c'era bocca e roba dura. Io ho capito. No, chi sono fatti russa, se non spara, i nocchi non fanno nulla. Assolutamente. Ma il cane mio purtroppo sta bene. Va bene un conto. Questo proprio. La pentolina, quel buffo a me. E l'altro giorno gli ho fatto il bagno, adesso ho dato la macchinetta, quando arriva gli fa lattoso, tanto già fa caldo adesso. Sì, ho la tosatura, poi dopo la laviamo e c'è il profumo suo. La di Grilli l'ha dato bene, di Grilli. Giriata, ormai abituata a Gusietta. Shampoo suo, quello con i cari, poi c'è il balsamo. Cosa che mangio io, lui quando vede che io sto mangiando, allora vuole pure lui la roba. Tutti i cari sono così. So che ti chiede da solo le crocchette a mangiare. Le crocchette sono un pasto completo. Tu mio manco, non manco morto ne mangia. L'altra volta il veterinario voleva dargliele, non tanto non le mangia, lo so. Mi rapporti, un cavolo mi l'ha mangiato. No, la mia mangia crocchette buone, solo un attimo a tagli mettendo la roba che ha finito la lavatrice. Cabagabau. Cabagabagabagabau. Malissimo, molte tante, non si capisce niente di quello che dici. Cosa? No, non si capisce niente. Lì per te ci vuole un apparecchio veicolare con un alimentatore. Allora, se questo è il DAC, sicuro. Questo è il DAC, potenza 6 watt, com'è il segnale? Guarda, vai. Guarda, 6 watt, adesso io ti faccio il passaggio a gancio, gli ho messo il lineare dentro, un bellissimo lavoro fatto, cazzo dall'ultimo gioco. Mi dici se però devo ancora abbassare la potenza quando accendo, quando attacco il lineare, c'è l'interruttore dietro, però è dentro il lineare, quindi quanto è così, poi ti faccio un passaggio parlando e aggancio, quanto è così? Sì, più avanti del più, più avanti al 3, dai. Già, cazzo, 6 watt, madonna santa, come facciamo allora? Vabbè, vediamo, allora guarda, così, con 6 watt, adesso poi come devo alzare. Così aggancio, ok? Così è agganciato lui. La modulazione è buona o è satura? Quanto è salito? Ah, ti ho portato a 9 e si è salito a 9,10. E la modulazione mi interessa a me, com'è? No, oh, perfetta. Quindi praticamente adesso tu apri tutto il refegain, perché l'importante è quello, apri tutto il refegain. Guarda se arriva al 3, il segnale supera al 3, com'è? Con il refegain aperto e se la modulazione va bene. Ah, classe, sì, proprio davanti al 3. Prima eri tra il più e il 3, sei davanti al 3. Vabbè, non si nota da me perché sto troppo vicino. Però va da 9 a 9,10, così hai detto, con il refegain chiuso. Ma sgancia! sganciato. Allora, aspetta che sgancio. Allora, così è sganciato. Attenua, vedere. Vai, parla. Allora, così è sganciato. Guarda, mi metto in piedi perché così è sganciato. Affanculo. Così è agganciato, ok? Così è agganciato, 1, 2, 3, e così è sganciato. Allora, ti ho portato a 9, fai, da 9 a 9 e 15. Quindi viaggia, va bene? Quanti vatti? 747. Mi ha dato un'idea Antonio, ieri, praticamente che cosa ho fatto? Ho tolto il coperchietto di sotto ed entra giusto dietro nel pannello del DAC ed è dentro, capito? Quindi adesso il DAC va da 0 ad 80 watt, 75 watt. Ultimo lavoro, esce bene, non salto né niente. Ascolta, quanto c'ha d'ingresso quell'apparecchio? Questo c'ha da 0 a 12 watt, io l'ho messo a metà, a 6 watt. Sì, esattamente, 6 watt. 6 watt. Io oggi me lo prestano, vediamo un po'. Solo che a questo qua devo abbassare il watt, ne ha 20, ne ha. Mi abbasso il watt e l'altro con 747, vediamo un po' cosa dice. Che se rende lo compro, eh. Non lo vedi quanto rende, è un legnaletto del cazzo che però viaggia. Per i baracchini va bene, dunque. Va benissimo alla grande, capito? Va benissimo alla grande. Io guardo, sto volando e poi ieri Antonio mi ha dato un input, ha detto no, adesso non lo do più, ma mi attacco io e lo tratto io, capito? E viaggia bene, viaggia benissimo, costa poco e per i baracchini va bene. Va bene, non voglio provare, vediamo se rende. Ricordati di abbassare i watt, non lasciare i watt alti, se no lo gribbi, Massimo 6-7 watt, non gliene dare 10 come dice la casa, 6 watt sono sufficienti, non ti cambia niente lui. Io ho guardato, da 6 a 10 non cambia assolutamente niente, proprio un qualche watt in più dà, però lineare lavora meglio. Vabbè, claro. Gliene do anche 5, 4, così non rischio, capito? Beh certo, no, io gli ho dato sì, con un wattmetro giusto, questo è la T230, vediamo, perfetto, ok, 6 watt modulati quasi 10, perché questo c'è un bel picco di modulazione, capito, quindi ne dai magari 10 e te ne modula 15, e un grip. Invece 6 modulati quasi 10, 8, 9 sono nella norma. Allora se attacco anche al diphone devo abbassare i watt anche al diphone, perché non mi regola dal coso, cioè praticamente sì me li regola, scende a 2 watt, però quando vado a modulare sale a 15, cosa li fa? Cioè l'ingresso ne ha praticamente 2. Vabbè, però adesso bisogna chiedere a Antonio, perché credo che sul picco di modulazione non influisce, è importante la portante fissa quanto le dai, capito? Perché il picco di modulazione sale e scende, non è che influisce molto, quindi non penso che sia così, però lui 10 sono troppi, sicuramente ti satura. Oh, prova. Io non l'ho voluto rischiare, ne ho dato 6, intanto da 6 a 10, ti ripeto, ho visto che il cambiamento non ce n'è, assolutamente, va bene. Faccio le prove, là. Fatto i provi. Va bene, adesso ho riagganciato, visto che mi hai detto che non ci sono problemi, che va bene come modulazione, che non satura, quindi ottimo per la truppa. Ottimo per la trippa. Quindi cazzo, così supera addirittura il 3. E quanto è disegnare, cazzo, 9.40. No, sì, proprio davanti al 3, ti faccio la foto, aspetta. Perché io con normale sono sempre sul dopo il più. Se adesso sono dopo il 3 sono in mezzo tra il 3 e lo 0. Aspetta che con WhatsApp non si vede bene quando faccio la foto. Vai, grazie. Dovrebbe essere tra il 3 e lo 0 così, dai, tra il 3 e lo 0, mentre normale dovrei essere tra il più e il 3, va bene, ma non mi interessava tanto quello, mi interessava sapere appunto se la radio andava bene, capito? Alla grande. Detto da te, non ci sono problemi. Allora, vediamo cosa dice Roberto. Te gira, chiede sempre chi su, abbassa. Non va bene, ti misuro. Misurami, io. La seggiola dell'officina e passo ogni tanto un altro palla a rompere le balle. E gli ho detto, cazzo, ma misurai di misurare perché non mi misuri la... Gli ho detto chiaro e tondo, capito? Cazzo, ma così è meglio, almeno vi dico, ma cosa mi dice, gli dammi i bibiditi, a futti dini. Allora, sì, invece prima sto sul più, vero? Sì, e lì lì sì, dai, poco a poco, sì, non si nota perché sto troppo vicino, ma da lì sei rientrato. Yeah. Te lo dico già meglio, non vedi, boh, che sei messo di sé, cacai, ma però... Vero. È un bel tartalino di Sassari. Beh. E beh, mi stavo provando il 747 qua col DAC, io ho fatto un lavoro eccezionale, dovevo farlo già da tempo, invece ieri Antonio mi ha detto come fare, l'ho messo dentro con l'interruttore dietro, preparato i cavettini giusti, capito, per la commutazione. E dovrebbe andare bene, eh? Adesso sono agganciato, quanto è il segnale da te, Natalie? Un chitto, non te ne posso dare segnale, ma cosa? Non c'ha né numeri né niente questo Smither, c'ha solo queste barrette e buco. No, barrette ne aggiungo già io un bel. C'ho le barrette piccoline sotto e poi c'ho le barre grandi, capito? Le barre grandi c'ho anche, quindi non mi servono le barrette. Tu Luca barrette c'hai? Sì, cioccolato. Io c'ho giusto le barrette mi. Ah vabbè, ma è Natalie, tutti li accende Claudio, perché qua arriva, chiamato la foto, arriva tra il più e il 3. Sì, anche da me sarà così, ma senti tutto, sennò che non è affidabile niente in questo affarino. Non ha importanza, Natalia, adesso lo sgancio, era giusto per capire come mi devo comportare, capito? Niente di che, eh? Ok, metto a posto quello, c'è un casino, ci sentiamo dopo, raga. E tanto io dopo devo uscire, dai, aspetta una marina che venga a prendermi e manda a fare un po' di spesa. Eia, va bene, capa di Ross, metterò a cambio. Gabba. A fianco ti puoi sedere? Si può sedere da e guido io. No, si può sedere con la mascherina, se siete di famiglia si può sedere. Sì, mia moglie a fianco possiamo andare con la mascherina. Certo che sì, sono andato io con mia figlia. Mascherina e guanti, capito? Lo sappiamo. Adesso che possiamo sedere. Gabba, ciao Concetta, avanti. Sono sempre più basso arrivino. Va bene, Meda. Ma l'autocertificazione è un'altra nuova adesso. Ma io posso andare con la mia ragazza a fare la spesa? Anche se non abitiamo assieme. Io abito a casa di mia madre e lei abita a casa sua. Con tanto di mascherine e guanti. Lei si siede dietro e mi sono davanti. Cioè guido io, dai. No, il numero su internet già c'è, no, ma non è per chiamare a loro ogni volta, ma tanto se mi mettono la multa, nel caso mi dovessero mettere la multa, non gliene pago, possono fare quello che voglio, chi se ne frega, mi interessa. Mi si capita, non hai compreso, non ne paghi, già la paga gli eredi, tu sei molto. C'è qualcuno che sta chiamando però lui, non ho capito chi è. Aspetta un attimino, c'è qualcuno che chiama, avanti chi chiama Claudio. Sei poco veloce. Purtroppo c'è qualcuno qua che forse non lo sentite, parla e magari tu non lo senti e cosa faccio? L'ammazzo. Scusi un tiro. Ciao Claudio. Oh bravo. Spostati un attimino, anzi aspetta, fermati qua fra, che sto usando il baracchino con quel 747, hai notato qualcosa di diverso? Aspetta che accendo l'altra. Accendi l'altra fra, perché voglio capire se è una cosa che può andare bene, se non mi stacco, perché ho fatto un lavoro fatto bene, dai, col DAC, voglio sapere se viaggio. Vai. Guarda, questo è il segnale agganciato, fra, questo è il segnale agganciato, aspetta che sgancio, 1, 2, 3, questo è il segnale agganciato, questo è il segnale sganciato, mi devi dire se c'è incremento e se la radio va bene, sganciato, agganciato, cambio. Ok, passi da 7 a 9, agganciato. Da 7 a 9, quindi va bene, fra, incrementa, la radio è buona? Sì, sì. Ok, allora lasciamo stare, giudicato. Mi interessava il tuo parere perché sei anche distante, poi tu queste prove le fai spesso, perché con Luca siamo troppo vicini. Va bene, allora bigiodutto, no, puntello, così si dice, puntello. Un ciò da 20. Va bene, fra. No, l'ha giurato 6 watt, fra. No, desi, come ti dici, niente. Io ho giurato 6 watt d'ingresso. Intanto non cambia niente da 6 a 10. Il lignaretto lavora meglio, non soffre e la radio non s'attira. Allora c'è scritto 5 watt da l'ingresso e basta. Devi dare a fascia di volte giù. 5 watt d'ingresso, ho letto il manuale. Perché Gianni dice 10 watt, a me non mi risulta 10 watt, io mi ricordo 5, non 10, quindi dico una 6 e gli andrebbe, un watt in più non li fa un raio. No, ma anche se ne dai 10 non li fa niente, capito? No, 10 ce li ha di picco. Infatti è dentro 70 watt, modulati 80, capito? Però è meglio così, farai, Daniele di meno. Cappa. No, il mio l'ho provato ieri e mi dà con 5 watt però, con 5 watt, e mi dà tutte 100 watt, mi dà. Via da te, questo l'ho comprato nuovo, fra, l'ho comprato usato e sicuramente gli hanno cambiato qualcosa e non arriva più di 70, 75 watt, 70 watt, dai. 100 non me li ha mai dati a me, assolutamente. Cappa, vabbè, questo non era mai usato, è sempre nuovo, nuovo, nuovo. Infatti, no, no, io l'ho comprato usato, anzi, veramente l'ho ritirato assieme alla radio, c'era anche quello in mezzo, però è nuovo, nuovo, ma sicuramente io non l'ho mai aperto, ma sicuramente gli hanno cambiato qualcosa dentro, e quindi 100 watt non li dà, però non me ne frega niente, non è che, è giusto un aiutino al DAC perché non supera i 10 watt, capito? C'ha 8 watt, 10 modulati, quindi quando uso quello è troppo basso il segnale, allora inserisco l'amplificatorino, capito, fra? Capo, anche io quando uso, se uso questa la radio non emetto di queste cose, ma mi bastano i suoi, ma se metto un'altra che ha pochi watt, lo aiuto se non arrivo. Infatti, neanche io ho fatto così, ma è giusto per fare che cosa? Intanto oggi sono libero, non devo andare avanti in ufficio a fare niente. E allora ho detto, beh, domani mattina mi collego con il lignaretto e me lo provo a vedere se va bene. Vabbè, dai che metto a posto qua, riprendete, grazie fra dell'info, Riprendi Lugarie, fai girare tu, io mi allontano un attimo e metto a posto, vai. Luca si deve stare allontanato. Va bene, dai, ciao Cla, ci sentiamo, che anche io mi allontano, devo fare una cosettina. Dai, su WhatsApp che stavo ascoltando messaggi, K. Allora, ci sentiamo dopo, ok, con te Luca, Natalino, Nicola, Nicola, stai arrivando troppo basso, Il montaggio di quell'antenna non mi piace. Va bene, Cla, ciao, ci sentiamo. Io Nicola non lo sento purtroppo. Va bene, dai, ma aspetta un attimino che devo fare una cosa. Ciao Luca! Ciao, poi ma ti arrivano un bel basso fra, Quando sei entrato, tu o tre? Sì, stavo usando un'altra radiolina, stavo usando. Io sempre lo stesso sono, perché penso che in base allo smitter, cioè in base a quanto sale lo smitter dai watt la radio. A me mi sta salendo a 3 adesso, a 4. Non vorrei che questa macchina si sta mezzo bruciando. Ma guarda, a dire la verità la tua radio è sempre, mi sembra sempre la stessa. Perché sei 7 modulati 8 e sempre così, sì, la radio è bellissima, 5. Non lo so, questo Smith che impazzisce, ma mi dà un fastidio, cosa gli ha preso? Lo Smith non c'ha niente, perché se avesse problemi, la ricezione lo stesso avrebbe dato problemi, ma il ricezione rimane stabile, è bello, funziona benissimo. Perciò non è un problema di Smith, secondo me è un problema di sta calando la tensione, non arriva bene la tensione, lo smitter, cosa adesso? Ma te lo fa quando parli tu o quando parla un altro? Quando parlo io. Allora c'è qualcosa di tensione lì, perché se adesso va bene, vuol dire che non c'è niente lo smitter. No, la trasmissione, la ricezione è perfetto. La trasmissione, adesso vedi, mi sale a... da 3... quasi 7. Dovrebbe avere qualcosa quando parli tu. di trasmissione, probabilmente. Va bene, dai, tu, che devo fare una cosettina. Vai, fai, tranquillo, non c'è problema. Avanti, Natali, ci sei? Che ci sono. Vai, andare a fare la spesa. Mi dice? Ho letto, devo andare a fare la spesa. No, niente, non devo andare da nessuna parte. Era per chiedere se potevamo viaggiare affiancati. Ah, capito. Che regala. Comunque in quello sneaker c'è qualcosa che non passa bene l'attenzione. Sarà crepato qualche resistenza, qualche condensatore. Che ora adesso? Ha iniziato a fare a casa di Marina. Perché prima questo baracchino stava andando con 12 volte, 19, quasi 12, ma 12 non ci arrivava neanche, quelli alimentatori dei computer, mi. Ma si ha bruciato qualche componente. Sì, boh. Sono andato di buon comando, non me la fuggi nulla. Perché lo smitter non è. Guarda, perché lo smitter sta funzionando bene. Prima era un po' inchiodato, demorato poco a poco la vittima, ma poco buon gomito, ho detto che c'è la vite, ma guarda, ho fatto finta di girare. E ha ripreso a funzionare. Però mi sto facendo un grosso problema adesso. Non lo so. Vediamo. Mi chiama. Ti dicevo bene, perché noi siamo. Qua sei basso, Nico, sei molto basso qua. Non devi muovere niente, no? Devi tirarla su quell'antenna. Ma adesso ti sento ancora più basso, mettila com'era. Non è che puoi fare con Natalino le prove che sei attaccato. Devi fare con me le prove, lontananza. Mi hanno detto che siamo troppo vicini, ma è nel poggiolo l'attaccata. È tutto chiuso in mezzo ai palazzi. Arriva più basso di come arriva quando si mette sul tetto di casa sua con l'antenna del portatile, ancora più basso mi arriva. Qua da Viale Trento tu devi arrivare almeno 9 più 20, sì, Santiago 8. Infatti non stai radiando quell'antenna, non va bene nel poggiolo. La boomerang nel poggiolo deve essere aperta, non che tu la piazzi nel poggiolo e il radiale di radiazione, che è quello piccolino, punta sopra il palazzo, e deve essere libero, altrimenti tu non uscirai mai bene. Devi metterla sopra, Nicola, sopra. Comprati il cavo lungo e l'antenna mettila sopra. Va bene, va bene. Cambio basso. Perché sopra non la può mettere, mi capito? Deve essere per non contare con i vicini. Allora non le mette sopra. Però è così, come ti dicevo con i gentili. E non ti riapponi nel boggiolo. Quando è tutto usarrato. Natali, non ti devo insegnare niente, lo sai come lavora la boomerang. La boomerang è un'antennina eccezionale, se però c'è spazio per il radiale funziona. Se tu la chiudi è come, guarda, è meglio che usi un'antenna interna. C'è un'antenna di macchina, è quella che c'è voi sul frigorifero, tira a me. Arrivami più forte tu che lui. Ha capito, io l'avevo messa sul frigorifero per fare massa, chi dà? La mia buccia sopra la base magnetica, no? E quindi la usavo così. Cazzo, magari arrivavo più forte io che lui. Infatti è un problema che non va bene, un problema da risolvere. Deve cercare di metterla in una maniera diversa. Così non va bene, io non l'ho vista, non so manco dove abita, ma sono sicuro che c'è qualche errore. Ci pensa Yolanda, ma è tutto usato da riparati, con il radialino punta su un palazzo, punta. Sì, ma voglio capire, se il radiale è attaccato alla ringhiera ed è verso la strada, è un discorso. Se l'antenna è girata verso l'interno, è ancora peggio, lo deve mettere in una posizione. Capito? Non c'entra niente se c'è il palazzo, c'è il radiale centrale che irradia, però la punta dell'antenna deve andare fuori, non dentro il poggiolo. Non lo so io come l'ha piazzata lui. Questo ce lo deve far capire, se vuole un consiglio, altrimenti non so cosa dirle. Qua sta arrivando segnale 8, quando si mette sul tetto mi arriva 9, con l'antenna del portatile. Certo, se quella boomerang la mette sul tetto, altro che 9 ti arriva. Ma arriva, te l'ho detto, il segnale da lì è 9 più 20, se non arriva anche più forte, perché Marco a me ha il segnale più alto di tutti, è 9 più 30 liscio, 9 più 40 quando attacca, fatti un conto. Ma è più in alto Marco lì, no, Condor, è più in alto di lui, è via principessa Yolanda, capito, in mezzo ai palazzi. Ma Marcolino Condola è anche cuocomane, Nicola non è cuocomane. Infatti, Marcolino è anche cuocomane, è quella. Quindi lo aiuta, è come Luca, vedi, Luca esce un bel forte, perché è cuocomane. Se non fosse stato cuocomane arriverebbe basso. Come? E allora? Che bella, che bella. Tu sei su più del 30, fatti il conto. Che appunto sul 4,40 è quasi 9 più 30 il più, quindi va benissimo, alla grande. Vabbè, fedimi buoni apposti, no, che sto preparando i microfoni a Massimiliano, ci dobbiamo vedere, le sto dando l'80, il 50 e il 60, vediamo qual è quello che va meglio. Anzi, allora io l'80, l'85, il 60 e il 50. E Sciavini erano tutti dentro l'armadio, li sto mettendo dentro le buste sue, dentro le scatole sue, vediamo, li prova tutti, quello che va meglio si compra. Io ho un accontatore manuale della MFG, pagato 220 euro, e mi ruglio vendita perché apparecchi decametrici non ne ho, e quindi che me ne faccio? Lo so, bisogna venderlo, però di là non viene che tu vedi Natali. Io a Massi le sto prestando questi microfoni, così vede lui qual è il migliore e poi vediamo. Io non glieli vendo, se li deve comprare, se lo deve cercare, perché a me i microfoni mi servono, io ce li ho tutti, tutti. C'ho l'SM20, l'MC80, l'85, il 60, l'80, il 50, ce li ho tutti, tutti, MB più 4, MB più 5, TANE più 3, vi lascio tutti. Io quella è più 4 più 5. Servo 60, TANE più 2, TANE più 3, MB più 4. No, l'MB più 5 non ce l'ho mai avuto, perché c'ha il tono, che cavolo me ne faccio io. E vabbè, io ho più 4 più 5, questo l'ho modificato perché l'ho comprato da Gigi, c'è una bella capsula, spinge un bel viaggio a due, un microfono. Ho quell'apparecchio là, tutto aperto, ecco perché sei così io là, perché l'ha aperto anche da dentro lui, non solo dal menu. Ah ecco, è per quello. Va bene, dai, che preparo sta roba. Nicola, fammi sapere come hai montato questa antenna. È colpa di Luca e quel cuocomane. Cuocomane sei tu, hai capito quello bello? Ti faccio squillare il telefono, 24364, eh? Prova a farmi squillare un telefono, che vengo lì e te ne strappo i baffi e i bottoni del gilet. Prova, cuocomane. È vero. Il numero di lui telefono. Che bega, bello. Ma che ragazza! Allora, questo guardalo, c'è un sembra strano, un hard disk da 8 terabyte, 10 euro. Mi pare che l'aggiù da 2 giga ai nonchi, ma si fa vita a te, e che te lo regalo tu. Cosa me ne vuoi? No, vai lì. No, mi dice, ma a me ne serve uno grosso. Ma mi sembra strano questo qua, 2 terabyte. Sono 500 di quelli che si mettono USB. Ah, sei andato. Poi ne ho uno. Poi c'ho nel telefono ce l'ho a 32 giga, più 128 sono 140, 160 giga nel telefono. Poi vabbè, a dischi ne ho uno da 320, uno da 500, uno da terabyte. Ma questo qua mi sembra strano, l'ho detto, cazzo, 8 terabyte, cioè sono 8000 giga, sono minatali, 10 euro, un bari strano. 8 tera, io avevo capito 8 giga. 8 terabyte, 9,97 euro. Mi 8 terabyte, a disk drive. Luca, poi ascolta, ma l'hai avuto tu l'Alan 42 multi portatile? No, portatile sì l'ho avuto, ma non mi ricordo che modello era. E chi se lo ricorda, va? Ti parlo di 30 anni fa, se ti fidi. No, ma questi non c'erano 30 anni fa. No, non lo so, perché? Perché non riesco a farlo andare in AM. Ma è un difetto oppure se... non lo so, ma è un difetto, ho iniziato a difettare. Che ne so io? Me l'hanno dato e non riesco a farlo andare. Ho caricato il manuale, ma faccio la procedura, ma non me lo fa. ho capito. Lo so, sai, come di voti di Tibusuelli, non sei bito, mamma mia, va. Ehi, capo, vabbè. Che sta andando in... Cos'è? Ascolta, com'è lo Smith da te? Positivo o negativo? Il mio. Prova, fai. Vedi, a vedere. Com'è? Negativo, sì, da me. Negativo. Ok. Ok, adesso dovrebbe essere positivo. Adesso è positivo, sì, 8, poco più di 8, quasi 9. Ehi, cappa, dai. Va bene così allora. Ok. Ehi, perché è importante, beh. Tu? Sì, ogni tanto non va nessuno e poi entra a rompere le balle, capito? Perché non ci sono portanti? Vabbè, già la sentivo sotto di te. Oh, allora è lì vicino a te. No, è a Santiago 5. Santiago 5, dove diavolo è? Tu si usa. Sono via gatta. Prova fra qua, voglio vedere. Vedi? Sì, sì, stesso segnale di Luca mi arrivi. Dall'8 al 9, va bene. E picca adesso è buono, positivo. Ehi, caprai. Beh, però a me mi sta dando negativo, perché cazzo? Boh, io a volte gli strumenti ce l'ho al culo di scimmia. Ora. No, l'articolo 130 mi sta dando il positivo a me. Boh. Sì, allora l'ha già baciato Dorna ed è positivo. Ora. Qualcosa c'è. Si controlla bene l'ispezione. Dai, arrivo subito un attimo, sto preparando della roba. Ehi, va bene, dai. Riprendi, lo fai girare. A dopo, so. Gaba. E bella sta lì. Ciao, Natalino. Sono qua. Non balli, eh? O chiamo, lo faccio squillare la telefono a Concetta, eh? Poi tu parli con uno. Con Concetta si prende a crude di scoppa. Che Dio usami, usate qui. Cavè. Ui, ragazzi, c'è la discina. Discina. Tanto sta per arrivare, avete cinque. Uia, uia. Chi c'è la vestaglia, mi sembra. La schiena mia, la stessa non è messa bene. Io... Salvo. Cazzo, devo vendermi su MTG. C'ho l'antenna, quella bibanda per la macchina, quella un metro e mezzo, che mate cosa amara, Claudio mi già lo sa. Ma la base magnetica non ce n'era per nessuno, con quell'antenna lì. Marcolino si è fissato sul rosmetro della Daiba e quindi non rubo più i sacchi da dove. Ha chiesto una via precisa e l'ha preso. Così è, non c'è niente da fare. Almeno. Vai, Luca Maricuglio. Vai, cuoco, male. Luca Ponti, lo sai che ti faccio squillare il telefono stanotte? Almeno. Stress. Luca, ti mando una cosa, stavo facendo sino adesso. È il compleanno di Marco. Ah, a lui la parte mia allora, a farne 100. Quanti ne ha fatto? 18. 19. Ah, cavolo. No, ma veloce che sta arrivando Marina a prendermi, dai. Oh. Ah, sì. Siete tu e lui, boh. No, io, lui e Liliana. Ah. Adesso devo fare anche il pesce, però lo faccio all'ultimo. Devo fare il tonno, comprato. Ah, l'ingrasso, gira. Sì, vabbè, una volta. Poi, pizzumì, questo. Beh, ci mancherebbe. Ci mancherebbe che paghette, che paghette, che paghette. Se però è bello il magno, ma non me la parecchietto. Solo che purtroppo quando lo prendi non sai chi ce l'ha in mano. C'è quello che stava vendendo Luca, quello lì c'ha il coso dei il frequenzimetro che non funziona, il frequenzimetro lo puoi mettere anche esterno sicuro. Lo puoi comprare quello della ZG esterno. Non funziona, ma a me mi ricordo che in un apparecchio che avevo comprato su internet, un Galaxy Saturn Echo, non mi funzionavano le ultime due cifre, le avevo portato, non so se te lo ricordi, come si chiamava, già Gianfranco, quello che aggiustava baracchini prima, che adesso sta facendo la guardia giurata. Dopo la tavola me l'aveva messa a posto, aveva cambiato, non so se un diodo o qualcosa del genere. Non lo so con chi è. Aveva capito chi è, quello che c'era, hai visto lo scarpa, quello di Vianizza, ce l'è presente, dove abitava Cocondo. La parte di dietro c'era un tecnico che c'è l'antenna ancora. Sì? Quello lì me l'aveva fatto. E lo sta dando, Luca, lo sta vendendo per conto di un amico, non so chi sia. E quanto? Non lo so, c'è scritto di contattarlo. Cioè, è un magnum che dice che non pregiudica il funzionamento, l'unica cosa che c'è è che non si vedono le ultime due cifre delle frequenzine. Non ho capito. E che ne sei? Che ne sei? È carino, ma parecchio, dai, è bello. Bello, bellissimo, non vi ho tanto qui ancora meglio. È bello. L'ho fatta praticamente col difetto che fa, perché poi è stato appurato che è difettoso di frequenzimetro, e l'hanno praticamente tolto col difetto, capito, nel 980, perché per il resto è uguale. Sì, qua, allora sono qua in questa pagina ti avevo mandato il link su WhatsApp, no? C'è qua, 172 euro la Superstar 2009, però lo scrivo su eBay, non lo trovo, boh. 172 euro, ma c'è per Superstar che vuoi prendere? Sei indeciso. Luca, grazie alla sua vecchia per la nuova, fregato si ritrova, a me gli apparecchi, quelli che c'hanno il menu e cose, non mi piacciono, quelli tutti quanti digitali, non mi piacciono. È come le macchine, a me mi piacevano più quelle meccaniche, quelle... adesso guarda, hanno sempre difetti, queste macchine che fanno adesso, sempre difetti, se accendono le spie, questo, quell'altro, devi portarla, devi farli controllare, ti devono annullare la spia, insomma, ti si riaccende, è un casino. A me non mi piace le cose... Tu mi dirai, sarai il retrogrado, però preferivo, cavo, i finestrini, quelli a manovella, piuttosto che, per farti un esempio, no? Piuttosto che quelli elettrici che ti si rompe il motorino dopo due giorni. Lo so, tutte le ragioni del mondo, purtroppo, cosa vuoi fare? Cosa vuoi fare? Consegna, spedizione, stanotte, due giorni. Vabbè, per accontentarsi, ormai è tutto digitale. È proprio oggi che compriamo di mio figlio, mi sta girando le palle con la cassetta del bagno, mi sta perdendo acqua. Ohia, guarda, ho chiamato l'idraulico, così vengo domani, tutti ho visto l'aria, da prima del coronavirus. Ohia. Allora cosa si sta perdendo, da bocchettone? No, la mia cassetta è di quella attaccata al water, ce ne presenti, sono abulonate al water. Cosa c'è? C'è una guarnizione sicuramente sotto, perché la fa andare in diretta col water, capito? C'è una guarnizione che va, lo scarico della cassetta va direttamente al water. E questa guarnizione o si è consumata o è da stringere, che ne so, ho provato a stringere, ma ci vogliono con le chiavi a tubo, io non ne ho a tubo. Ah, chiave a tubo, capito. Io me lo compro la trice a tubo, adesso che me la sono ricordato da Bricoman, che mi serve, che è proprio quella. La 10 ce l'ho, la 8 ce l'ho, 8-7, no, 8-9. Diciamo quasi tutte, là. Bisogna che chiave è quella. Mi pare che sia una 10, una 8-10 dovrebbe essere. Io ce l'ho a tubo. Ma scusate, la guarnizione già, è la guarnizione. Sì, col tempo si rovina, ho capito. L'ho tirato su il coso del galleggiante, di modo che non scenda l'acqua. Poi ieri ho provato a stringerlo, ma non c'è spazio per far girare la chiave, capito? Quindi vuole a tubo per forza. E niente, ho provato a stringerlo, non ce l'ho fatta, ho provato con la pinza, non ce l'ho fatta. E allora adesso l'unico tentativo che c'è è farlo con la chiave, stringerlo e poi riprovare, ma ogni volta che riprovi si allaga tutto il bagno, è un casino, guarda. Che cos'è già? Flessibile? No, ciao, il mio bagno è fatto praticamente così, c'ha la cassetta attaccata al water. E sicuramente a me è successo questo, gli stavo togliendo il tappo perché non funzionava il pulsante, mi è caduto il tappo dentro, deve essere si è mossa la cassetta e praticamente siccome ha bullonato al water direttamente lo scarico per l'acqua, e sicuramente o si è mollato oppure si è mosso, cosa ne so, due pezzi se pieno. Non fa, devo stare un italiano di leva sempre a pelle. Adesso mi sono rotto le balle, ho chiamato l'idraulico, prima del coronavirus, mi ha detto guarda già, c'ho la febbre, domani ci sentiamo. Tu sei detto la tentatura, ho telefonato e non risponde. Boh, è un casino qua, casino. No, ce l'ho anch'io la cassetta bassa, già nella cassetta bassa è fatta, flessibile che arriva dal muro e va sotto, io flessibile no, c'ho il tubo in rame, cromato, va sotto la cassetta, lì va praticamente a entrare l'acqua all'ingresso del galleggiante. Se ti si è mosso, non stringere perché lo spacchi. Sicuramente è la guarnizione da sostituire dell'ingresso del galleggiante, dell'ingresso del flessibile al galleggiante. L'ho già sostituito due volte io. 5 pezzi di queste cassette basse, no, il mio cesame, ce li ha carboni, però quello di via Napoli, capito? Claudio, ma allora è diverso, perché il mio il flessibile entra di lato, non entra sotto ma di lato, capito? E dal flessibile non perde nulla, perde da sotto, dalla giunzione che c'è tra il water e la cassetta, esce acqua da lì. Allora già l'unica è, come ci stai lì a perdere tempo, smonta, a vedere che tipo di guarnizione è. Secondo che tipo di guarnizione è, si va a rigo e si compra. Facciamo l'idraulico, ti paga un botto. No, ma non c'è l'idraulico, è una cazzata. Vuol dire il tuo è diverso, quello della cesame ce l'ha da sotto, ok? Da sotto, capito? Ce l'ha da sotto e io l'ho già cambiata la guarnizione del galleggiante. E non solo, ho cambiato anche il galleggiante, ho comprato tutto da carboni e non solo, ho cambiato anche già la pulsantiera, ma non quella in alto, quella che pigia, quella che è dentro, perché dentro c'è un meccanismo che è ad aria, c'è una pompetta, tu schiacci quello, la pressione dell'aria ti fa sollevare sotto, la pulsantiera di sotto, apre e scende l'acqua, capito? Bisogna vederlo perché sicuramente è roba di tanti anni come il mio, però va manutenzionato, vanno cambiati già tutti i pezzi, altrimenti è un casino. Già, mi sono cambiato le cannette del lavandino perché mi era sempre allagato, boh, non si capiva dove era il problema, le ho cambiate e bombo, adesso non perde più. Ci ho messo un po' di tempo, perché viene male, sotto, si bigia e fa. Poi per il problema che ho la schiena, guarda. Vabbè, comunque le ho cambiate e sei a posto. Adesso devo cambiare il rubinetto del bidet e tutta la lampada me lo scarico, cannetta, gommino e tutto. Attenzione che per i flessibili e per le cannette ci sono le chiavi adatte. Io me le avevo fatte fare dal meccanico, capito? Dal meccanico nostro lavoro, perché lui fa anche lavori di idraulica e quindi me l'ha fatta. Sono delle chiavi particolari con i ganci che mantieni flessibile e stringi, se no il flessibile ti si duzzineggia, capito? La stessa cosa per la cannetta, la stessa cosa per i tappi che sono attaccati al lavandino, la ghiera che è attaccata al lavandino si smonta così da sotto con questa chiave particolare. Va bene, gappa. Appena riserva non l'avete sentito? Stamattina no, perché? Anche detto di passare la mia sei subito, so che ancora si intende. Pigia, chi è che ha detto? Ho detto che dopo mi riaprirci quel pezzo. l'antenna che mi devo dare. E ne è ancora finita, ha detto quando vado al lavoro vengo. A chi? Antonio Riserva. Ah, quel pezzo dell'antenna della macchina. Ehi, quello della Sigma. Che ce l'ho dopo l'uomo, non l'ho mai usato. Niente, è dato lo stilo, ma la parteggio l'ho tenuta, cioè l'ho tenuta, perché mi mancava il capo che l'avevo usato per altra roba. E già passerà, dai, sentiamo dopo. E ciao. Dai, a dopo ragazza, a dopo sta arrivando Maria, dai, a dopo, ciao, aspetta, tanto devo rientrare qua, ciao. Attenzione, cerca le 10, c'è qualcuno? Attenzione, canale 10, c'è qualcuno? Attenzione, canale 10, attenzione. Attenzione, canale 10, attenzione. Attenzione, esperto di canale 10, ascoltori. Io vi sento il controllo, dai. Da siete poco buttinosi, ma con controllino, poi amate, gli fate. Non c'è più nessuno qua. Attenzione, Natalino, mi ascolti, cambio. Hola. Sì, già ti ascolto con quell'eco, cavagava. Ebbene, ci sei, Acci? Eia, ti ascolto con quell'eco, cavagava. Natalino? Eia. Questo pari sotto terra, Rocky, bubu. Ti sento pochissimo qua, bassa la radio. Pensa che provo a attaccare l'M93, da. A chi mi ha rompito i cattoli sul microfono? Come va con questo microfono qua, questo apparecchio? Che forte come radio, va bene. Questo qua, praticamente, quello è il microfono originale del Galaxy, da, Saturnecco. Sì, va bene, aspetta un attimo che prendo l'M93, perché questo mi sta facendo schifo. Prendi l'M93, ovvio. Grande. Che è, avanti. Chi si scende da sottoterra? Chi sta uscendo da sottoterra, io? Ciao, dottore, buongiorno. Io, Natalino, a chi stai dicendo? Se stai uscendo da sottoterra me ne stai uscendo. Mi stai facendo il tutto. Davvero? Davvero, buongiorno a tutti. Anche a quelli che non ci sono. Certo, io già ci sono, buongiorno. Buongiorno anche a lei. Natalino, Claudio e via dicendo. Questo qua è il Cora. Col microfono del Galaxy Saturn, ecco. Gianni, mi senti adesso? Ah, hai rovinato tutto! Oh già! Sì, ti sento, Natalia! Ho attaccato l'M93. Non è che ti amplifica, è la verità, però la radio è più forte. Ma questo non si sa dov'è la LC, un macello è! Non ci sono schemi, nulla! Poi questo lo devo dare così! No, va meglio Natali dell'altro, va molto meglio. Sì, va meglio sì. E almeno lo puoi impugnare, questo il microfono è più grande. Chi su è un microfonino del cavolo, manco in macchina me lo metto. Quello lì. Pucci cazzo, il microfono vero. Ma questo va bene, non è grande amplificazione, ma si sente anche concetto a parlare, quindi la modulazione va molto meglio, eh. Io sto usando il DAC con l'MB più 5 già. Cosa, Cla? Che sto usando il DAC con l'MB più 5. Non sei uscito. Ho detto di russo, se non premo bene questo microfono non esce, devo premere forte. Cavagava, già va bene, ottimo. Mi sta dando anche un bel infarto, deve essere ben acceso da stamattina, deve essere valvole, sono belle cariche. Emettore! Ehi, cosa mi dici? È buono. Catta, gli ho fatto la vira oggi, apri come di 50 bassoni io. Ehi, anche io devo andare a comprare il materiale, ma abbiamo deciso di comprarlo a Olbia. Lo prendiamo a Olbia, ce lo portano direttamente, perché andare lì è un casino. Forse è meglio. Forse è meglio, almeno ti fai una passeggiata. Cosa hai detto, Natali? Non ho detto niente io. Ho detto, dove vai a Olbia? Le cere sarde? No, lì, quello che c'è nella strada di Arzachena, per andare ad Arzachena, l'uscita. produce materiali edili, non mi ricordo come si chiama. Va, capito. No, io andavo alle Ceresate a prendere materiale per fare il negozio di Platamona, andavo lì. Alle Ceresate a Ulia mi stava andando, già fatto l'Ulia di sette chiese, per ripermiarsi con centesimi, mi stava fatto andare a me all'ora di pranzo a Ulia. No, vabbè, noi abbiamo il cantiere a Ulia, capito, quindi non cambia niente. È poca roba, però ho detto la prendiamo lì a Ulia. E vagando per l'Astro, si è fatto l'Ulia di sette chiese dove si risparmiava, è andato, capito? Ha chiesto qua, là, boom, va, ha messo piuttosto il gasolio del furgone, è stato a me, non mi ha dato nulla per gli straordinari, quindi non ha funzionato. Non sai funzionare così già. Ho mangiato un panino al Fanguglioni, poi sono andato a casa di mio cognato, quando abitava lì, che abitava dietro lo stadio, in via Gran Bretagna. E sono andato a bere una cosa, abbiamo fatto il caffè, poi è venuto insieme a me, siamo andati alle Ceresate e poi ce l'ho riaccompagnato a casa e me ne sono tornato in Gran Bretagna. Tuo cognato non c'era a casa, in Gran Bretagna c'avevo un impianto di sollevamento, io che passavo tutte le mattine a fare la vettura proprio lì dove c'è il Nespoli, dietro alla Nespoli, l'ingresso è davanti, dietro il Nespoli io andavo. Allora, la mia Gran Bretagna abitava, visto dove ci sono tutte quelle ville a schiera, col giardino, eccetera, eccetera, lui abitava in una di quelle villette lì, nell'ultimo portone, di fronte a quelle dei medici, dove ci sono tutti i dottori, infermieri, eccetera, eccetera. Ma che c'è il bar a fianco, che c'è il bar vicino? No, bar non ce n'è, non me ne ricordo che ci sia bar. Mi ricordo che praticamente se tu esci fuori di fronte ti trovi la ferrovia che passa. Allora è lì dove andavo io. Allora è lì vicino, là, ho capito. Non lo conosco, quindi, ma l'ho visto un sacco di volte, vabbè. Kappa, bene, ti sto arrivando, torna squadra. Io ho voglia, quando non arrivi mai male, arrivi sempre bene a me, anzi, più di Gianni, più bene di Gianni anche. Aspetta, questa è una brutta notizia, è già, vabbè, stiamo usando radio diverse, io sto usando il mostro, questa radio Barrasone, così chiamata. Un camion, bella, sta funzionando veramente bene questi giorni, infatti sto usando sempre questa. E poi è chiara anche, c'ha un timbro di radio che è buono, che è bella. È ovvio, è bella, valvolare, c'è lo stadio finale a valvole, questa ibrida, metà a valvole, metà transistorizzata, a 220, anzi a 110 valvole di alimentazione. Adesso le avevo già abbinato, solo che non avevo batteria, le ho comprato la batteria e sto usando il coso, MB+5, va bene, KK, e anche tu arrivi bene, non c'è un problema. Da voi di tanto che l'ha già fatto un piccolo coso al cavo, che stava sempre dove adducca, ho dovuto controllare tutto e aprirlo. Dopo di tanto mi sono trovato dove era interrotto. Oh, ma il cavo del microfono. E allora, ho dovuto aprire un pezzetto e dentro era tirato, era il cavetto. Questi cavetti quando iniziano a rompere le scatole, Vabbè, comunque stai uscendo bene, non ce n'è problema. Ascolta già, e avevi provato a mettere sul Cobra quello di tavola, il microfono? Sì, a fischia un bel, bisogna abbassare il mic, no, ho provato. La fortuna mia è che c'ho tutti gli apparati con lo stesso attacco, però l'ho provato e no. Va bene, è solo sul Galaxy e basta. E anche sul Magnum, dai, regolandolo anche sul Magnum. Però sul Cobra fischia, più brutto. È come l'MC60 sul DAC, la stessa cosa, quello l'adattatore fischia, mentre l'MC50 non fischia, però per non usare i microfoni professionali, ho detto ma c'ho l'MB più 5 che è girata. Allora, ho fatto uno spazietto, sto usando l'MB più 5 col dati, già vabbè. Tattalino, Tattalino. Ma l'M93, Clark, che tu sappia, non è che ci avrà qualche cosa per aumentare l'amplificazione da dentro, no? Tipo l'M300. Ma sai che non me lo ricordo, ma un trimerino c'è dentro. C'è dentro perché io ho l'F22 che è simile a quello. E dentro c'è la regolazione, capito? Provo a aprirlo, già di gusto, è tanto, non venuta dentro. Mi sembra che sia un trimerino, non so a cosa serve. Adesso guardo. Se si può amplificare un po' di più. Sì, ma già va bene, già va bene. Anche così va bene, Natale, non c'è problema. Cosa hai attaccato, già? Mi serve di sotto. Hola, 1, 2, 3. Sto regolando un attimino. Hola, hola. Così non dovrebbe fischiare. Come esce? Bene, bene, bene. Scappa, così non fischia. Questo qua è quello che ho fatto io, dai, quello che ti ho spiegato. Questo va bene, ottimo lavoro. Ma come avevo detto, l'ho già sentito. Va bene, perlomeno qua in lontananza va bene. Poi non so se in vicinanza è troppo forte. Devo abbassare però il marchiglione dell'apparato, se lo alzo fischia. Ma sei rialzato, mi serve di soldo, come sei rialzato. Prova a chiedere al Tore, va bene. Se lo lascia così è buono. Scappa, adesso non sembri più sottoterra. Cioè, stavo scherzando, mi. Vai da un po', Gesù. Ma ti sarai offeso, no? Ah, ma figurati. Si può migliorare, si migliora, dai. Questo qui è di un amplificato che ho fatto io, dai. È un ibrido tra un Proxel e un altro microfono. Va bene già, lascia stare così che vai benissimo, alla grande. Bianco per me che mi squilla. Comunque ci sono degli apparati in vendita su coso, su Radio Amico CB eccetera eccetera. Invece adesso ce n'è uno che le sta vendendo a Vogo, c'ha un Tornado, c'ha altri apparecchi, c'ha anche un Tornado modificato. Se ti interessa abbigliatiri. Gianni, vedi, tu sei basso, te, io ti sento basso di radio. Come mi senti adesso? Più forte? Noi? Mi arrivi al cuore. Ma già, non ce n'è trimmer. Capito, trimmer non ce n'è di regolazione. C'è solo lo slider e basta. No, non ti sento più forte, sei sempre uguale. Devo dire c'è il limite dell'amplificazione che ha. Ma non è che si può regolare dal menu l'amplificazione? Non è che si può regolare dal menu? Non ne ha questo menu, questo è l'omologato. Cappa. No. No, non ne ha menu. Pensavo che avesse un menu all'interno. Ma io questo qua lo regolo da fuori. A me non mi piace dire cose in menu contro menu, sotto menu, poi. Cosa vuoi che ti dica? Questo